Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tre settimane fa un grosso incendio di smart minicar e motorini. Stamattina l'ennesimo risveglio da incubo per gli abitanti del Torrino, quartiere a sud di Roma. Un altro rogo doloso ha distrutto, danneggiato circa 40 automobili parcheggiate. Intorno alle 5 sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre e tre autobotti che hanno provveduto a spegnere il gigantesco incendio. Un inferno tra esplosioni e fiamme altissime che ha svegliato gli abitanti della zona. Botti, fumo, puzza di bruciato fortissimo. Però insomma lo vediamo vicino e ecco qua insomma quello che e poi siete hanno fatto. Anni fa già lo fecero sotto casa. Chissà proprio perché quando inizia l'estate e oggi l'estate inizia per davvero, almeno questa notte, che è la notte del solstizio d'estate, si parla di fuoco. Era una notte fantastica nelle mie campagne, si accendevano grandi fuochi, grandi falò, perché era la notte delle streghe, poteva succedere di tutto. E probabilmente ormai persa la memoria degli antichi rituali di passaggio tra un solstizio e l'altro, beh, chiaramente si accendono fuochi. Un termine ricorrente, quando si parla di fuoco estivo, è il termine piromane. Se esso è un incendio in una zona boschiva che potrebbe diventare edificabile, se esso è un incendio come quello che avete sentito che avviene nei centri urbani in cui una fila, un'intera via di automobili viene incendiata. La mattina trovi degli scheletri di auto incendiate. Le auto poi di questo periodo prendono fuoco benissimo, poi molte auto hanno delle scocche di plastica, insomma è molto facile che prendano fuoco. E si parla anche in questo caso, è stato un piromane. Si parla di piromani anche quando ci sono incendi come quello sulla Pontina, probabilmente. Roma da un po' di giorni è assediata da incendi. 10 giorni fa c'è una colonna di fumo che vedevo in distanza dietro la cupola di San Pietro. Era preso fuoco non si sa bene cosa, una discarica, un luogo di ammasso di rifiuti. Sono incendi quelli che avvengono ormai all'ordine del giorno, accanto ai campi nomadi dove ci sono persone che fanno stoccaggio abusivo di immondizia. Per ricavare rame, metalli, le cose utili dai mucchi di immondizia si dà fuoco. È un fuoco terribile, puzzolente, velenoso. Però sempre, ricorre sempre, qualunque sia il tipo di fuoco, la parola piromane. Chi dovrebbe essere il piromane? Ma il piromane dovrebbe essere una sorta di parafilia, una persona che prova eccitazione, estasi, divertimento nell'appendere il fuoco. Ma siamo sicuri che c'è sempre dietro un pazzo che gira con l'accendino dietro di tutti questi fuochi? Sì, perché i sistemi di appendere fuoco, di attaccare fuoco sono molti, sono tanti, ci sono varie teorie, varie strategie. Mi dicono per incendiare le auto in fila bisogna mettere uno straccio sotto il cofano dove c'è la parte in plastica di un'automobile, imbevuto di benzina, poi danno fuoco, prende fuoco una, prendono fuoco tutte. Per dare fuoco a una vasta distesa boschiva, il sistema più usato, usato in Sardegna, usato anche in Sicilia, c'è un'intervista al presidente del Parco dei Nebrodi in Sicilia, dice che usano ancora il sistema del gatto. Sì, è brutto, ma se si lega addosso a un gatto uno straccio, si imbenzina, si dà fuoco, il gatto scappa, corre, e correndo semina il fuoco dappertutto. Beh, c'hanno a che fare qualcosa i piromani con tutto questo? Avete idea di cosa ci sia dietro questi incendi? Vediamo di capire all'interno di ognuna di queste categorie di incendi cosa si possa nascondere. Avete mai avuto dei danni da incendi? Vi è mai successo che qualcuno desse fuoco a qualcosa di vostro o vedere delle fiamme accanto a casa vostra? 800 24 0024. Melog. Cronache meridiane. Un focolaio dopo l'altro, più di 20 ore consecutive di incendi che hanno interessato diverse zone del capoluogo ligure. Genova, circondata dalle fiamme, sta cercando di far fronte ai roghi divampati ai due capi della città, nei quartieri di Nervi e Pegli. Vigili del fuoco, volontari e Canadair lavorano senza sosta per spegnere le fiamme che hanno divorato ettari di bosco e si sono avvicinate pericolosamente alle case. Molte abitazioni sono state evacuate, a tratti anche le autostrade invase dal fumo sono state chiuse. Le fiamme hanno raggiunto un deposito di legname, guardate laggiù, si sta lavorando per cercare di spegnerlo, i vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme. 800 24 00 24, una delle tante notizie che presto sentirete legate a incendi sempre più incessanti. poi saranno le notizie di agosto che verranno dai luoghi frequentati da turisti, poi pian piano si riparlerà d'altro, si comincerà a parlare delle bombe d'acqua, ma nel frattempo se ne sentirà parlare molto di incendi. Nena, buongiorno, un'ascoltatrice. Buongiorno, ciao. Allora, io nel tempo libero faccio la guardia ecologica volontaria e già da una decina d'anni il nostro gruppo, insieme ad altri volontari di altre associazioni ambientaliste, al sabato e la domenica da giugno a settembre si mettono in alcune postazioni sopraelevate nei dintorni di Bologna in collegamento radio. Cioè delle altane, avete delle altane dove state? Allora, io personalmente con i miei vado in una torre medievale in provincia di Bologna, alcuni hanno come delle specie di postazioni improvvisate col tavolino sopra una tettoia per non morire di caldo, eccetera, e ci occupiamo di segnalare ogni minimo fumo. E quando si segnala questo ci si mette d'accordo in modo che, visto che nel bolognese perlomeno, ma credo in tutta Italia, quando un agricoltore vuole bruciare le stoppie deve avvisare il giorno prima, perché così si deve sapere, perché sennò il rischio appunto è che chiunque accende i fuochi non si sa chi è stato e si procurano anche allarmi ingiustificati. E nella mia esperienza, allora, intanto posso dire che c'è un sacco di gente, soprattutto pensionati, che invece di fare gli umarelli in città a vedere i cantieri passano il weekend a stare attenti agli incendi, quindi veramente onore al merito. Onore agli umarelli, sempre, certo. Esatto, sì, almeno questi qui. Sì, però e mi poi... dica un po', nella sua esperienza, quante sono, diciamo, stoppie, le stoppie ricordo perché non tutti hanno, allora, è il grano una volta dire... mietuto rimane esatto, della paglia che va bruciata. Il 90% degli avvistamenti sono fuochi accesi dal contadino che poi magari va a casa, fa il pisolino, il fuoco gli sfugge di mano e lui non se ne accorge neanche. Sì, questo però accade nel bolognese, in una zona dove ci sono coltivazioni e allevamenti, dove ci sono foreste è diverso. Ecco, c'è stato invece a ottobre dell'anno scorso, mi è stato detto in seguito a polemiche sul far aggiungere o non aggiungere impianti sciistici in cima al Corno alle Scale a quasi 2000 metri, un grosso incendio lì nella brughiera, e lì per fortuna che anche lì quel giorno c'erano dei miei colleghi. C'è un umarella vigile che l'ha visto, mi fa piacere. Sì, esatto, esattamente. Comunque per il resto è capitato anche a me una volta tornando a casa dai miei, ho trovato il prato e degli alberi in fiamme, i miei non c'erano. Qualcuno aveva acceso il fuoco per bruciare qualcosa e poi era andato via. Cioè, vediamo di capire. Intanto, Nena, grazie della testimonianza. Vediamo di capire se è possibile fare una tipologia delle fiamme in Italia, se no facciamo di ogni erba un fascio. Abbiamo una persona che se ne intende, è il dottor Marco Cannavicci. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. È uno psichiatra, criminologo, è stato consulente negli anni passati per il Corpo Forestale, quindi lei di incendi ne ha visti, ne ha studiati e ne ha capiti. Cominciamo a classificare un po'. Innanzitutto, lei si è mai posto il problema dell'esistenza o meno di questa figura mai ben definita del piromane? Esiste il piromane? Diciamo che nell'ambito degli incendiari, tra le varie motivazioni che possiamo trovare nell'appiccare il fuoco, quando la motivazione è di tipo psicopatologico legata all'eccitazione, come lei ha detto prima, lì possiamo identificare il piromane. Cioè uno che prova eccitazione sessuale a accendere il fuoco? Non necessariamente, vabbè. Deve essere un'eccitazione di tipo sessuale, è un'eccitazione. Si eccita, gli piace il fuoco. Che però può essere talmente tanto intensa come un'eccitazione sessuale. Ah, beh, ognuno perché di fronte al fuoco alcune persone provano delle emozioni molto forti e il desiderio di riprovare quelle emozioni li spinge a riaccendere nuovamente il fuoco. Quindi non gli basta di avere un caminetto a casa, di vedere tante fiamme, una distesa che più fuoco c'è più si diverte, ecco, questo sarebbe il caso. Beh, uno dei motivi per cui noi mettiamo il caminetto a casa è proprio di vedere il fuoco, per cui ci fa piacere vedere il fuoco, genera eccitazione, genera piacere e da quel punto di vista è uno degli stimoli più profondi che noi abbiamo all'interno della nostra mente, per cui il fuoco è ancestrale, è antico, ci siamo cresciuti, ne abbiamo avuto paura, lo abbiamo amato, ci ha aiutato nella cultura, il fuoco fa parte delle nostre tradizioni e della nostra storia. Quindi ci può stare che c'è una percentuale di persone che accende fuoco senza nessun interesse, speculazione, semplicemente no. A lui piace, va lì con i fiammiferi, accende e si diverte a guardare il fuoco. E questo sì, è un problema. Quanto più è facile fare questo, come ad esempio nel clima che abbiamo in questi giorni, tanto più per lui diventa veloce, immediato. soprattutto perché il piromane non è una persona che ha studiato inneschi o modalità particolari, è una persona che lo fa con molta semplicità, basta un fiammifero, un mozzicone di sigaretta, un accendino e accende il fuoco, contrariamente ad esempio a chi lo fa per profitto, per vendetta o vandalismo, che usa inneschi molto più sofisticati, molto più studiati. Quindi la differenza è quando voi studiate un incendio, quando andate a trovare l'origine, il punto X da dove parte l'incendio. Il meccanismo di innesco, sì. E quali sono i meccanismi di innesco più conosciuti che voi trovate? La storia del gatto è una leggenda metropolitana o è vera? No, ci sono stati dei casi in cui effettivamente è stata data fuoco alla coda di un gatto e il gatto, per scappare, soprattutto in una estate secca come questa, scappando ha provocato molti focolai, ma altrimenti di inneschi ci sono le corde, i sugheri, le bottiglie con i piombini dentro che quando esplodono a 360 gradi spargono questi piombini roventi su tutto l'ambiente, per cui diciamo le modalità sono tante. E questo è un incendio doloso, però per profitto sono conosciute. Ecco, lei nella sua esperienza, essendo anche criminologo, quali sono i motivi per cui si dà fuoco a dei terreni, ad esempio, a delle foreste, a dei boschi? C'è sempre un motivo di speculazione dietro, almeno si pensa. Spesso sì, c'è un motivo di speculazione che potrebbe essere sicuramente un profitto legato a un'assicurazione, ci può essere una vendetta, ci può essere un semplice vandalismo, oppure ci potrebbe essere, perché prima è stata citata, la bruciatura delle stoppie. In alcune regioni è vietato bruciare le stoppie, però i contadini non hanno altro mezzo per far fuori questi residui della campagna e quindi mentre prima assistevano e controllavano le stoppie che bruciavano, adesso essendo vietati accendono il fuoco e scappano via, certo, sì. Per cui il fuoco diventa non più gestito e se c'è un vento, se c'è un'atmosfera secca, se ci sono facilità di propagazione, quel fuoco poi si allarga sempre di più. Sì, nelle campagne io mi ricordo c'era sempre con il forcone in mano a salvaguardare, se ne facevano dei pezzettini per volta, si faceva la sera quando era più facile controllarle. Il fatto che sia proibito, perché in alcuni casi può essere nocivo, per evitare gli incendi, che poi è stato proibito, perché comunque il contadino vuole bruciare le stoppie perché la cenere residua, certo, è particolarmente ricca di minerali, fertilizza il terreno. Gli serve per rifertilizzare il terreno, quindi non si può per legge bloccare un'abitudine così antica di rifertilizzazione del terreno, a meno che non si danno al contadino degli strumenti per cui quando lo fa è vicino a qualcuno che controlla. Sentiamo Daniele. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Io ho fatto la stessa domanda che lei ha posto al pubblico a un amico che fa il vigile del fuoco, l'ho fatto l'anno scorso perché è arrivato questo periodo subito incendi, considerate io sto a Palermo è sempre così. Mi è stato spiegato che spesso, non dico sempre ma spesso, è una questione lavorativa, nel senso che chi appicca il fuoco lo fa perché sa che a seguito di quell'incendio agiranno dei volontari, dei vigili del fuoco. Sì, in certe regioni è vero, quando sono gli stagionali che lavorano a questo servizio danno fuoco per giustificare la loro presenza. Sì, questo è esattamente, anche perché storicamente accertato. E gli interventi che venivano fatti, essendo che necessitano delle macchine più efficienti rispetto a quelle che ha il servizio statale dei vigili del fuoco, sono costretti a chiamare i volontari, perché i volontari posteggono questi mezzi e di conseguenza uscendo con questi mezzi pagano gli interventi. Allora, questo mi sembra interessante. Marco Cannavicci, nella sua esperienza, mi sembra che sia endemico di alcune regioni, c'è cioè un particolare impiego di stagionali forestali. Esiste letteratura in questo senso? Sì, ci sono stati casi in passato, avvenuti in Calabria e in Sicilia, dove ad appiccare il fuoco erano appunto questi stagionali pagati a gettone, che per avere il gettone creavano il problema e a quel punto loro avevano un guadagno. Per cui non si può parlare di piromane, si può parlare di profitto in questo caso. Quindi già un secondo caso. Sì, però spesso dietro il vigile del fuoco non c'è solamente la voglia di spegnere l'incendio, qualche volta troviamo anche il desiderio di trovarsi di fronte a un incendio. Ci sono stati film che hanno espresso molto bene questo concetto, che se io faccio il vigile del fuoco è perché me in qualche modo il fuoco attira e quindi quando non c'è me lo vado a cercare o me lo vado a creare. È come quelli che gli piacciono i ragazzetti hanno a fare gli allenatori di calcio, la stessa cosa, se vogliamo metterla in campo di psicopatologia. Nel campo della psicopatologia, sì, sono condotte che sono state osservate e che andrebbero ipotizzate in alcuni casi. Sentiamo Ines. Ines, buongiorno. Buongiorno Gianluca, scusi il disturbo. È disturbo, è il mio mestiere. Mi pagano per questo. Io ho chiamato per un grosso problema che abbiamo a Torino. Sì. Come ho già detto al signore col quale ho parlato, noi abbiamo un grosso campo nomadi, mi scusi, che quasi tutte le sere danno fuoco a spazzatura, certo, pneumatici, le coperture dei fili elettrici, intossicando praticamente un intero quartiere, e ci sono stati un aumento terribile dei tumori ai polmoni, ma perché dei è diossina allo stato puro, chiaro, ma sì, succede in tutta Italia. Noi abbiamo fatto petizioni di tutto e di più alla sindaca e a tutti, però hanno mandato forze dell'ordine, vigili e tutto, vengono presi a sassate, spaccano i camion della spazzatura. È un problema enorme per noi, perché io che abito in un quartiere abbastanza lontano, questa mattina c'era un odore di gomma bruciata terribile. Non sappiamo come risolverlo. Mi sembra sia un problema diffuso in tutta Italia. Marco Cannavicci, questo qua è chiaro, succede anche qui accanto a Roma. Le persone, sì, che hanno come attività, naturalmente attività illecita, vuotare, sì, i cassonetti o rubare i cavi elettrici, poi la sera devono comunque separare la gomma e la plastica dal metallo. Infatti il fuoco serve per quello, serve per liberare il rame dalla plastica e per quindi avere il rame puro, per cui quegli incendi sono legati al tipo di attività che loro sono, che tossici, loro altamente tossici, comunque, chiaro. La plastica che brucia, sì, altamente tossica, perché libera in circolo anche la diossina, che è particolarmente tossica, non solo la diossina, anche tante altre sostanze derivate dal carbonio, che possono avere alla lunga un effetto cancerogeno. Poi vede, noi abbiamo già classificato finora già tre diversi tipi di incendio. Il piromane puro, quello che è un maniaco, gli piace, maniaco, ha una sua parafilia nell'incendiario, che prova divertimento all'incendiario. Quello che lo fa per dare giustificazione al suo lavoro stagionale, quello che lo fa perché brucia le stoppie, quindi è un'usanza contadina e non si può fare in alcune parti, lo fa comunque, quello che lo fa a fine di speculazione per vendetta o per ottenere una destinazione d'uso diversa in un terreno, e quello che lo fa perché vive surrettiziamente rubando materiali che possono avere un valore come cavi con il rame, bruciando il rame ottiene questo tipo di fumo velenoso. Cioè abbiamo fatto cinque tipi diversi di persone che provocano incendi e molte volte si semplifica dicendo che tutti sono piromani. Ma andiamo avanti, tra un istante, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo, che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda dal 26 al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Hanno appiccato un incendio per gioco, le telecamere a circuito chiuso li hanno ripresi domenica scorsa durante l'emergenza in Sicilia, mentre in pieno giorno, dopo aver scavalcato la recinzione, accendevano uno dei roghi che hanno devastato la regione, quello al deposito comunale di rifiuti speciali di San Giuseppe Iato alle porte di Palermo. Le fiamme che hanno distrutto la struttura e provocato una nube tossica sono state spente dopo 800 24 00 24. Oggi parliamo di fuoco, di incendio molesto, tutte le maniere in cui noi riusciremo a classificare quelli che sono gli incendi. Abbiamo visto che molte volte il termine piromane è un termine restrittivo, da una valutazione quasi epica, dando sempre la responsabilità ai piromani. Molte volte questi incendi sono ben mirati, hanno una loro motivazione. A voi è mai capitato che qualcuno vi incendiasse l'automobile, ad esempio? Ci dobbiamo spiegare, anche perché delle volte si trovano, soprattutto in questo periodo, interi quartieri di auto bruciate. Qualcuno ha interesse per farlo, c'è un'idea di sfregio, di invidia sociale, magari gente che viene da un altro quartiere più marginale, o danno fastidio certi tipi di macchine. Molte volte c'hanno i maniaci certi tipi di macchine, questo lo ricordo bene, bruciano soltanto alcune macchine. Questo crea una sorta di presenza, presupponenza epica di vedersi poi il giorno dopo nei giornali celebrati per un'impresa che si è fatta clandestinamente. Beh, qualcuno ha dato fuoco alla vostra macchina, mai successo, o alla vostra casa, o alla vostra proprietà, e siete mai trovati intrappolati in un incendio? In vacanza accade spesso. Kevin, buongiorno. Ciao Gianluca. Buongiorno. Ciao, finalmente parliamo assieme. Ho parlato un po' di volte. Io però sento pianissimo, spero che tu mi senti, perché sento pianissimo. Sento. Allora, mi senti bene? Sì. Mi senti bene? Sì. Allora, io con un fratello, io ho 45 anni, e lui invece ne ha 48, ti ripeto, non 18 e 15, 48 e 45, bruciamo farfalle, ma lui piace, farfalle e cicale, e io mosche, api, quello che è. Ma ve le mangiate e poi le bruciate solo per il gusto di bruciarle? Vabbè, tanto le bruci, cioè prima le infilzi, prima le stradisci. Ah, 45 anni, poi le infilzi? 45. Sì. 45, giuro, Sì. So che la cosa fa ridere. No, no, non fa ridere, metto preoccupazione, perché queste cose, guarda, non ti dico sinceramente, tutti le abbiamo fatte, ma fino ai 6 anni, con la lente bruciare i formicai, anche nei film della Max Life ci sono queste storie qua di formiche che le bruciano i bambini cattivi con la lente, ma a 45 anni mi sembra un po' avanti nel tempo. È 48 lui, E cosa fai? Andate insieme, ci andiamo a bruciare farfalle. No, no, ma in estate, tanto in campagna capitano. Sì. Capitano cicale, quello che è. Lui c'è la fissa per le cicale. Le infilza. E poi accendiamo il fornello, quello della cucina, classico, quello che c'hai tu. Che abbiamo tutti e guardi mentre bruciano. E poi qual è il divertimento? Le guardiamo. E poi? Le guardiamo, non so, sento una cosa di energia. Cioè, ti piace vedere soffrire l'insetto, ecco. Tanto è solo un insetto, non è una macchina, una persona. Sì, ho capito, ma non temi un'escalation, che poi passi animali un po' più grossi? Non ti è venuta la tentazione? Ma non l'ho ancora fatto. Ma ti è venuta la tentazione? No, 45... no, direi di no. Qualche ex, qualche donna viene la voglia, dai, però lascio perdere, dai. Qualche? Qualche donna magari viene voglia, qualche ex. Cioè, di bruciare qualche donna ti viene voglia? No, ma sono battute, dai. Sì, vabbè, Dio, non è che sono battute. Vabbè, ti rendi conto che avete un problema in famiglia? Questo te ne rendi conto? Te lo dico. Io non giudico nessuno, però che c'è un piccolo problema in famiglia. Sentiamo, scusa, abbiamo a disposizione, non che voglio fare diagnosi immediate. Marco Cannavicci, ricordo che è psichiatra, criminologo, consulente negli anni passati per il Corpo Forestale. È al di fuori, diciamo, del tema della trasmissione, per qua non entriamo nel campo degli incendi. Non credo che questi provocano incendi, perché lo fanno nel fornello di casa. Ma un suo commento a quello che dice l'ascoltatore? Per quello che si è compreso, rientra perfettamente nel profilo psicologico che è stato sempre fatto a livello internazionale. Cioè, il piromane, che sia italiano, americano o di altra origine, rientra in questo profilo psicologico. Quindi potrebbe avere un'escalation, che un domani gli invoglia di dar fuoco magari a un pezzo di bosco, perché ci stanno tante cicale, tante formiche, tante farfalle? Diciamo che questo desiderio di escalation in genere non ce l'hanno, appunto perché hanno una ristrettezza di orizzonte. Cosa consiglierebbe di fare questo signore? Beh, finché così, diciamo, è contenuta come... Certo, che a 48 anni uno prenda le cicale, le porti nel fornello e gli dà fuoco, lascia un po' pensare, sinceramente, però non mi sento giudicato. Sì, sono tutte attività sostitutive di altre attività, e ci spiegano perfettamente perché... E le altre attività quali sarebbero? Cioè che non scopano, detto in parole povere, questo è? Beh, diciamo, in genere sono persone un po' solitarie, relazioni sociali molto, molto scarse. Sono persone che agiscono appunto con ritualità, così come è stato detto, perché la ritualità fa parte di una ricerca di sicurezza. Hanno appunto una bassa performance per quanto riguarda lo stare con gli altri, la relazione, stare con gli altri. E poi, diciamo, hanno questi sbalzi di umore abbastanza frequenti, per cui hanno bisogno di qualcosa che li tiri su, e se non trovano gli insetti spesso si fanno ricorso all'alcol. Vabbè, è stata una parentesi, comunque ci sta anche questo, visto che l'ascoltatore candidamente ci ha raccontato quello che è un gioco in famiglia fra lui e suo fratello, consapevole comunque, forse voleva in qualche maniera scandalizzarci, ma non amiamo giudicare, presentiamo una realtà. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, volevo spiegare un attimo cosa avviene quotidianamente, 24 ore su 24, tutti i giorni nella provincia di Caserta, magari ne avete già sentito parlare. Sì, sì, ma ci racconti. Sì, no, i roghi tossici non sono una, diciamo, una cosa che avviene ogni tanto, avviene quotidianamente, 24 ore su 24 e l'aria è irrespirabile. Un recente intervento del governatore De Luca ha detto che qui c'è un aumento dei tumori, delle meningiti. Ma da cosa vengono? Questi roghi vengono semplicemente da un problema di evasione fiscale, perché qua ci sono tantissimi negozietti che producono scarpe, ma anche, che ne so, i meccanici che hanno bisogno di smaltire pneumatici. Quindi sono residui piccoli, sì, residui speciali. Residui di pelli, residui di scarpe, che cosa viene rifiuti fatto? Rifiuti speciali che non sono smaltiti. Esattamente, esattamente. E questi rifiuti, siccome smaltirli al costo legale sarebbe una spesa enorme, anche l'amianto in eccesso, cosa viene fatto? Viene data dei sinistri figuri che raccolgono questo materiale. Beh, è uno dei business, della camorra, lo smaltimento dei rifiuti. Esattamente, esattamente. Qua che siamo tutti camorristi, siamo nella maniera più profonda. Cosa succede? Poi arrivano queste cataste di rifiuti in discariche abusive ovunque nei nostri paesi. Se vuole poi mi dà un recapito WhatsApp, le mando le foto di 12-13 rifiuti enormi, che quello di Pomezia, che hanno fatto una pubblicità incredibile, è un focherello. E questi rom, che sono la manovalanza, l'ultima ruota del carro, gli viene dato fuoco. Ma sono dei rifiuti, sono degli incendi, prego di credermi, sono una roba enorme. Noi siamo costretti a barricarci in casa. Sì, ma non è che non è che devono ricavare da quello metallo alto, danno fuoco per smaltirli semplicemente, per mettercene altri sopra, poi per diminuire il volume. Sì, diciamo che la tecnica qual è? Mettere questi rifiuti che provengono anche, secondo me, qui non ho le prove, da fabbriche del nord, perché è impossibile. Beh, certo. Che soltanto quello sia. Vengono messi questi pneumatici sopra, vengono dati alle fiamme per impedire che il rifiuto, che il rogo si spenga, che il pneumatico dato fuoco non si spegne. Sì, infatti è una tecnica particolare. In alcuni luoghi dove c'erano rivoluzioni in Africa lo mettevano al collo delle persone, gli davano fuoco in modo che si veda questa persona correre con lo pneumatico al collo. Allora, torniamo con Marco Cannavici. Altra tipologia di incendio. Lo smaltimento di rifiuti speciali abusivo fa sì che crei comunque o casi che prendono fuoco da soli o vengono incendiati con questa tecnica del copertone sopra per fare spazio a nuovi rifiuti, immagino. Diciamo anche per rendere l'identificazione del materiale quanto più difficoltosa possibile, perché se ho un materiale sano posso identificare chi lo ha prodotto e da dove viene. Se ho un materiale bruciato rendo questa identificazione un po' più difficile, come quando si dà fuoco a una macchina per ritardarne l'identificazione. E spesso questi fuochi servono per coprire altre forme di crimine, per cui siamo sempre all'interno di una organizzazione criminale che usa il fuoco per far sparire quante più tracce possibili per essere identificate. Quindi vede, abbiamo aggiunto in questa seconda fase a trasmissione almeno altre due o tre tipologie. Ma andiamo avanti, ci sentiamo fra un istante. 800 24 00 24, siete altre categorie di incendi che ancora non abbiamo toccato. Siete pregati di portarci la vostra testimonianza. A tra poco. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, stiamo facendo un'analisi dei possibili tipi di incendio, così almeno quando leggeremo sui giornali che c'è un incendio capiremo un po' meglio quali possono essere le origini, qual è lo scopo, chi può essere ad averlo provocato. Sentiamo Giorgio. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Sono stato in mezzo a diversi incendi in Croazia, specialmente perché sono sempre andato in Croazia, sì, prima di Tito e anche dopo. L'ho visto e ammirato anche la loro organizzazione come protezione civile, in quanto sanno cosa devono fare, sanno cosa devono far fare. Cosa fanno di differente rispetto a quello che vede fare nelle nostre... Adesso, tanto per raccontare un episodio reale, nella riviera di Macasca una ventina di anni fa partì un incendio, diciamo, c'era montagna e si arriva al mare e si vede la montagna come se fosse davanti a un cinema praticamente. Allora da Macasca cominciò a arrivare questo fumo, questo incendio, insomma, per farla breve suonarono le sirene, partirono tutti questi camion con della gente sopra, della gente non vestita da pompiere, vestita normalmente. Dei volontari, e le strade che davano accesso alla litoranea venivano bloccate da questi volontari, perciò la litoranea è stata usata come un tagliafuoco ed è stata tenuta libera per l'esercito, per i pompieri, morì anche un soldato. Sì, però in quel caso non mi sembra che fosse... le ragioni fossero di tipo doloso, erano incendi perché era caldo. Ma no, loro quando c'era ancora Tito era sempre doloso ed erano le potenze straniere che mandavano qualcuno a picchiare. Beh, questo fuoco. Lo dicevano loro, certo, è chiaro. Lo dicevano, facciamo un po' ridere. Sì, ma facevano poi vedere due giorni dopo, facevano vedere dei poliziotti che giravano sulla spiaggia con uno ammanettato che probabilmente era quello inviato dalla potenza. La spia che dava fuoco. Sì, ma praticamente era tutta una messa in scena poi fatta da loro. Così funziona nei regimi, certo. Poi ci dicevano di non andare sopra la litoranea perché loro difendono le case, lasciano bruciare il resto, il bosco o il rosmarino o la lavanda, che hanno grandi campi e che loro servono anche per fare dei prodotti, il miele o prodotti cosmetici. Poi altri incendi abbastanza importanti l'ho avuto sull'isola di Gvar, perché io attraverso l'Adriatico con un gommone, e allora quando è arrivato l'incendio che era partito da un campeggio, era andato, l'isola di Guare è lunga 80 km, è alta circa nei punti più alti 600 metri al centro e ha questa cosa. Vabbè, Giorgio, abbiamo capito, è interessante la sua vita fra gli incendi, però vorrei tenermi un pochino più alla realtà nazionale. Buona giornata. Mario, buongiorno. Mario. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, c'ha il viva voce, oddio, però si proviamoci. Sì, allora io volevo un attimino ritornare alle cause degli incendi che avevate elencato precedentemente, che riguarda un ascoltatore che diceva che molto spesso vengono fatte da degli stagionali per sì. L'assunzione. No, per l'assunzione, allora, per giustificare forse... il loro contratto stagionale. Esatto, per giustificare. Ecco, però io sono faccio parte della protezione civile, sono un volontario della protezione civile di Aprilia, nel Lazio, e noi siamo tutti quanti volontari e adesso è iniziata la campagna antincendio, per cui le campagne antincendio vengono svolte completamente, quasi completamente nel Lazio da volontari. Sì, ma un'altra storia, lì abbiamo parlato di situazioni... endemica in certe parlata di Calabria, di Sicilia, dove in molte aree è l'unica occupazione fare lo stagionale e occuparsi appunto di queste cose. Non è il caso di voi volontari che portate in giro una cultura di rispetto alla natura. Lì sono persone che esatto, diversissime. Lei fa bene a evidenziarla questa cosa. Ma certo, è chiaro. Ma è un'altra situazione totalmente. Ci mettiamo dei soldi. Ma figuriamoci. No, è giusto che l'abbia specificato, ci fosse stato mai dei dubbi, ma non è la situazione dei volontari, lì sono zone che vivono soltanto sulla gestione, molte volte in mano alla malavita organizzata, del grande business degli stagionali, sono numeri enormi, cifre enormi, sproporzionate rispetto poi alla loro reale utilità e quindi devono giustificarsi, quindi danno fuoco alla zona. Sentiamo Marco Cannavicci, che è psichiatra, ricordo, criminologo, consulente, ex consulente del Corpo Forestale. Mi sembra abbastanza chiaro quello che abbiamo detto, non volevamo coinvolgere i volontari che fanno cultura antincendio. No. No, no, infatti non si tratta di volontari, si tratta di persone che hanno un contratto a prestazione e quindi per avere la prestazione chiaramente ci deve essere l'evento. Quindi si tratta di tutt'altra tipologia di soggetti. Io però volevo inserire due altri elementi che fanno differenziazione fra gli incendi e che è l'orario in cui avviene l'incendio e il luogo dove avviene l'incendio. Questo è interessante, perché sì. Perché il piromane agisce sempre in genere pomeriggio-sera, non agisce quasi mai negli altri orari, mentre ad esempio un vandalo o se è per crimine, in genere avviene quasi sempre a notte fonda o nelle prime ore del mattino. Per cui già vedere quando sono, diciamo, che hanno avuto inizio l'incendio, già può orientare su che tipo di mano troviamo dietro quell'incendio. E poi un'altra differenziazione è che il piromane agisce sempre sugli stessi luoghi, con ritualità e con ripetizione, mentre il vandalo o chi agisce per altri motivi cambia continuamente e quindi si sposta di zona in zona. Per cui anche qui seguire un percorso che, e lo si fa con gli inneschi, perché ogni incendiario ha un innesco personale, un po' come la sua firma. Quando seguiamo gli inneschi possiamo seguire un soggetto che si sposta da una zona a un'altra, e quindi lì già sappiamo che non si tratta di un piromane, ma molto probabilmente c'è un vandalo. Oppure quando... Un vandalo o un emissario zona, di un'attività criminosa a volte anche. Sì, sicuramente potrebbe essere anche pagato per farlo, per suscitare, non so se dietro c'è un racket, il pagamento della protezione, se parliamo di negozi, ma anche se parliamo di macchine o se parliamo di altri in città. Ma lei si è fatto un'idea su questi incendi seriali che avvengono in molto... A Roma adesso in questo momento è riapparso, che danno fuoco a intere vie, intere strade con decine di automobili. Cosa ci può essere dietro, secondo lei? Dunque, in genere il piromane non fa questo, si limita appunto, come ha detto prima l'altra persona, a degli oggetti o degli animali molto più piccoli. Dietro queste situazioni c'è una gang di vandali, di giovani, che mirano a suscitare una risonanza mediatica per sentirsi protagonisti, e quindi il fatto di aver dato fuoco a tutte queste macchine, leggersi poi nei giornali il giorno dopo, nei media il giorno dopo, per loro è fonte di gratificazione e di soddisfazione. Può rientrare anche nel discorso che molti giovani sono pieni di rabbia, di rancore verso la società. Quindi odio sociale, come ho detto. Esatto, odio sociale, rabbia e rancore appiccando fuoco e distruggendo, per loro potrebbe essere una rivalsa sociale e psicologica. Molte volte anche la scelta di alcuni tipi di macchine, ad esempio la Smart, sì, che è sinonimo comunque di persona benestante, di persona che comunque ha una sua collocazione sociale, non è certo la macchina che uno usa la mattina per andare alla catena di montaggio. C'è, ci sta pure questo problema. Beh, molto grazie innanzitutto a Marco Cannavicci. Brevemente, velocemente, perché il tempo a disposizione è quello, abbiamo comunque dato un ventaglio, di modo che alla prossima notizia ai media incendio sapremo esattamente spiegare a noi stessi cosa ci sia dietro, non il solito piromane o il gesto inconsulto. Molte volte c'è una strategia ben precisa, si dà fuoco perché si vuole ottenere qualcosa.